la donna è mobile, qua di un male vento, muta d'accento e di pensiere. E di pensiere. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il cuore, ormai non sentasi felice appieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua di un male vento, muta d'accento e di pensiere. E di pensiere. Solitario il mio cuore, disilluso d'amore, vuol nell'ombra cantare una muta fontana è un balcone lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suono, mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Un'ombra lontana e una stella lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. La voce un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Aria serena dopo una tempesta, per aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole. Viene quasi una malinconia, sotto finestra toia restaria, quando fa notte o sole se ne scende. Oh, so fronte a te. Stai la fronte a te. Questo quella per me pari sono a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà. La costoro avvenenza è quel dono di che il fato non fiora la vita. So di questa mi torna gradita, forse un'altra, domani lo sarà un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. La costanza tiranna del cuore detestiamo, qual morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non va amor non ho, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti la smania e delino. Anco d'argo i cent'occhi li sfido, se mi punge una qualche beltà. Se mi punge una qualche beltà. Gioia in seno, poco ricovero darà negletto una pietosa lacrima non scenderà su quello a fine degli estinti ai misero manca il conforto a me tu pur dimentica quel marmo disprezzato mai non passarvi o Barbara del tuo consorte al lato rispetto alle belle ceneri di chi moria per te rispetto alle belle ceneri o di chi moria per te ma io passarmi tu lo dimentica rispetto al reno chi muore per te non passarvi tu lo dimentica rispetto al reno chi muore per te rispetto al belle ceneri di chi moria di chi moria per te recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure dopo sforzati ma sei tu forse un uomo paga e ridere vuole qua e se arlecchine timbola colombina ridi pagliaccio e ognun applaudirà tra muta e lazzi lo smorfio e il pianto in una smorfia il singhiozzo e il dolor morirì pagliaccio sul tuo ridi

di veritate il vero Thank you. fretta, a chi per me lasciò domini e colori, e le confuse feste, ove gli omaggi a me, dove le aschiavo già di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorre da per me. Qui presso a lei io arrivo e mi sento e dal soffio d'amor rigenerato scorrono le gaudi tuoi. Thank you.